Non so perché, come l'acqua fuggi via, come l'acqua scivoli via, come una pioggia caduta su me. E tu poi diventi un'onda che giganteggia di già, il pensiero un po' crudele. Come candele accende un grande fuoco, poi va. Come puoi, come fai ad inseguire l'ombra tua? Mi stai perdendo l'anima mentre corri e vai. Come l'acqua scivoli senza quasi traccia ormai, trasparente, tremula, io ti guardo e non ci sei. Oh, come puoi, come fai a ritrovarti come sei? Come fai a ritrovarti come sei?